Kellogg, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. La caccia è iniziata. Se da un lato i cacciatori hanno preparato le doppiette, dall'altra gli animalisti si sono uniti nella protesta per chiedere l'abolizione della caccia e la conservazione della biodiversità. Ha ucciso il figlio accidentalmente durante una battuta di caccia alla lepre. Un cacciatore di cinghiali che scambia per un animale il sacco a pelo nel quale dormiva sotto le stelle Don Francesco Cassol e spara. Mio papà mi portava a caccia, per me era normale avere una certa dimestichezza o sentir parlare d'armi. Due cacciatori si sono affrontati nel bosco dopo l'uccisione di una lepre. Entrambi rivendicavano il possesso della preda, uno di loro è rimasto ucciso. La mattina dell'equinozio d'autunno non trovo maniera migliore per ricordare il passaggio stagionale che tirare fuori nuovamente la patata bollente della caccia. Trattammo più volte in questo spazio il problema della caccia obsoleta, desueta, fuori tempo, anacronistica, non più conciliabile con quelle che sono appunto oggi le campagne, oggi i territori di caccia, e allo stesso tempo un punto di vista assolutamente rispettabile. L'esercizio venatorio è qualcosa che fa parte della natura più profonda dell'uomo, e chi si senta l'insopprimibile piacere nel praticarlo deve poterlo fare, però nelle condizioni di sicurezza, di tranquillità per chi transita per le campagne, che facciano sì che non esistano ancora bollettini di guerra così cruenti. 4 morti e 11 feriti soltanto a pochi giorni, 3-4 giorni dall'apertura della caccia. Voi mi direte: muore tanta gente per le strade, muore tanta gente negli ospedali, muore tanta gente per suicidio, muore tanta gente per un'infinità di altre cause accidentali. È del tutto strumentale attribuire alla caccia questa sorta di movimento di sterminio. Beh, sono qui per ascoltarvi questa mattina. 800240024. La questione però non è assolutamente nuova. Ha ucciso il figlio accidentalmente durante una battuta di caccia alla lepre. È successo stamani intorno alle 5:30 in località Bagazzano, nei boschi sopra Fiesole, in provincia di Firenze. La vittima, Lorenzo Cerbone, 32 anni, fiorentino della zona di Rovezzano, era andato a caccia in compagnia del padre, un 62enne, anche egli di Rovezzano. Camminavano nel bosco appaiati, qualche passo più avanti di loro lo zio del ragazzo, 44 anni, quando ad un certo punto il padre è scivolato perdendo l'equilibrio. Dal suo fucile, un Beretta calibro 12 regolarmente detenuto, è partito un colpo improvviso che ha colpito il figlio all'altezza della spalla, provocando una forte emorragia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il colpo sarebbe... Voi direte: è un fatto di cronaca, quante ne accadono gli episodi in cui le persone si ammazzano tra di loro? Sì, ma si ammazzano con una precisa volontà di ammazzarsi, rientra in un'altra casistica, in un altro punto di vista. Si ammazzano accidentalmente, ma esercitando attività indispensabili o di comune pratica, come guidare l'automobile, come svolgere le attività professionali. È un po' più difficile che si ammazzino nel corso di un'attività ludica, un'attività che impegna il tempo libero. E poi trovo che sia particolarmente atroce che due persone escano la mattina assieme, con la bisaccia colma di vivande, con il fucile in spalla, con il desiderio di passare una felice giornata, perché non è tanto l'esercizio proprio della caccia quanto il contorno, quanto la convivialità, quando il passare per i territori bardati da cacciatori che ha importanza. Beh, escano così felicemente attrezzati, poi finisce che uno accidentalmente spara addosso a quell'altro. Ma questa è l'attualità più stringente, il fatto di cronaca proprio di questi giorni. Ma il problema però, come dicevo prima, è stato trattato, pensato, immaginato non proprio ieri. Per gli uccelli è cominciata la stagione delle grandi preoccupazioni, si è aperta la caccia e per un tordo o una quaglia oggi attraversare un prato è quasi più pericoloso di quanto non lo sia per un pedone attraversare un incrocio fuori dalle strisce. È una grandinata di pallini di piombo. Ma gli uccelli si consolano, la caccia non è mica pericolosa soltanto per loro. Leggendo i giornali sembrerebbe che la caccia fosse uno sport pericoloso, è vero? No, non è pericoloso. L'importante è che tutti si ricordino che hanno un'arma nelle mani. Ecco, guardi quello laggiù. Ha sparato contro il bosco, altezza d'uomo. E invece cosa doveva fare? Bisogna sparare contro cielo o quando le condizioni di visibilità lo consentono. Nel bosco, lei capisce, possono esserci altri colleghi cacciatori, animali domestici. Questo fantastico documentario del tutto improbabile, in cui gli intervistati si sente benissimo, che leggevano un copione, perché allora non c'era il margine di rischio di intervistare una persona affidandosi semplicemente alle sue risposte, è dell'Istituto Luce del 1964. Nel 64 si diceva, si immaginava e si pensava, gli anni del boom economico, gli anni in cui l'inurbamento non aveva così, in maniera così feroce, spopolato le campagne, in cui sembrava ci fossero più spazi, le persone fossero più amabili, si volessero più bene, fossero meno nevrotiche, si dicevano esattamente le stesse cose che si dicono oggi. Maurizio Giulianelli, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Vicepresidente dell'Associazione Vittime della Caccia, voi puntualmente ogni anno fate il vostro rapporto e ricordate al mondo che in realtà la caccia non è un semplice sport, non è un esercizio ludico, ma lascia una sua scia di sangue. Ha sentito, nel 1964 si diceva più o meno, in maniera più allegra, meno funesta e meno con cifre, ahimè, molto tristi, si diceva più o meno la stessa cosa. I cacciatori non rispettano alcune regole e quindi c'è un pericolo per gli esseri umani che transitano nella stessa scia della selvaggina. Qual è il punto di questa mattina che fate voi, il vostro bollettino? Ma il bollettino riparte da una condizione di carattere generale che la caccia stride con i più elementari e necessari, assolutamente necessari, elementi di sicurezza per tutti i cittadini. Ora, il discorso è uno e uno soltanto. Ormai i contesti di campagna, a torto o a ragione, sono maggiormente antropizzati e quindi registrano una presenza di umani, di cittadini che risiedono o che svolgono le loro attività in condizioni ovviamente di insicurezza quando apre la stagione venatoria. Il problema principale è quello delle distanze di sicurezza che sono previste, tra le altre cose, anche dalla legge 157 che regola l'esercizio dell'attività venatoria in Italia, la legge quadro 157, agli articoli 21,1, lettere A e F, stabilisce quali sono i criteri delle distanze minime che un cacciatore deve avere, deve rispettare rispetto appunto alla questione sicurezza dei cittadini. Giulianelli, ma il rispetto della legge, secondo voi, dal vostro osservatorio, sarebbe sufficiente a evitare questa condizione di alto rischio? L'alto rischio rimane. Il fatto è che purtroppo spesso, troppo spesso, non vengono nemmeno rispettate queste distanze minime di sicurezza che dovrebbero essere poi applicate soprattutto ai fucili usati per la caccia agli ungulati, cinghiali, cervidi e quant'altro, perché hanno una gittata molto con un munizionamento più pericoloso, naturalmente, certamente, pericoloso per animali più grossi, quindi certo. Ci si incappa, non è certo un pallino. No, esattamente. E questo la dice lunga sulla questione sicurezza in rapporto all'esercizio dell'attività venatoria. Tenga conto che anche e soprattutto sul discorso sicurezza c'è una leggerezza dei cacciatori e c'è una leggerezza che gli viene consentita dalla mancanza o dalla non incisività dei controlli di carattere preventivo, il che vuol dire che poi alla fine i cacciatori si sentono autorizzati a sparare a chi che sia nel totale irrispetto di queste distanze minime di sicurezza e ci ritroviamo poi a dover gestire la conta dei feriti e dei morti anche tra i non cacciatori, l'ultimo un bambino impallinato nel proprio giardino, quindi proprio nella propria residenza, evidentemente chi ha sparato incurante delle distanze. Sono vostre queste vittime, queste cifre, diciamo, che dall'inizio dell'anno a oggi 14 morti e 35 feriti per armi da caccia. Allora, le cifre che produciamo sono quelle che estrapoliamo dalle quotidiane rassegne stampa, quindi naturalmente hanno il rilievo di quello che è stato estrapolato da quanto emerso dalle rassegne stampa e quindi da quanto comunicato da giornali e quant'altro. Fermiamoci un secondo, Giulianelli, perché immediatamente le posso dire c'è stata una grandissima reazione ai cacciatori. Io tutte le volte faccio trasmissioni su questo argomento, mi meraviglio, ma mi piace osservare l'umanità nelle sue più nascoste pieghe, quanto ancora ci siano, quanto anche se sembra un'attività lontana dalla contemporaneità, persone appassionate di caccia. I cacciatori hanno risposto in massa, poi risponderanno anche i responsabili della Federazione Caccia, perché non voglio fare una trasmissione a senso unico. Vorrei sentire subito voci di cacciatori. Massimo, buongiorno. Buongiorno a lei, salve. Buongiorno a tutti. Io sono sicuramente d'accordo su molti aspetti che ha enunciato il signore che ha parlato prima. Sicuramente la necessità di maggiori controlli potrebbe far desistere, io sono un cacciatore, quindi potrebbe far desistere i miei colleghi dal non applicare la pratica della caccia con la sicurezza. C'è di fatto che comunque il fatto di colpevolizzare assolutamente tutti i cacciatori solo perché imbracciano un fucile e quindi diventano tutti degli assassini, mi sembra un attimino. Ma se lei dovesse dare un giudizio generale sulla sua categoria, trova che ci sia questa mancanza di profonda cultura della caccia, che una volta era qualità che si trasmetteva in famiglia? Oggi molte volte il cacciatore è un parvenu, una persona che un giorno si compra un fucile, prende la licenza e va a cacciare. O mi sbaglio, non lo so. Questo sono d'accordo, perché oggi come oggi assistiamo al rilascio di licenze di caccia pur di rilasciarle, perché ancora alcune associazioni propendono per fare in modo di rilasciare più licenze per portare a casa tessere, quindi spesso si porta a rilasciare con semplicità magari licenze di caccia a persone giovani, che non è questione tanto di essere persone non in grado, ma magari preparare culturalmente meglio all'avvicinarsi alla caccia. Perché comunque la caccia, se noi andiamo a ragionare in termini antichi, è uno sport, tra virgolette, una tradizione che aveva delle regole morali prima che quelle scritte sulla carta. Sì, quello che volevo dire io, non so se poi la mia è un'esperienza troppo remota, una volta ci si andava da bambini, seguiva il padre, lo zio, il nonno, si imbracciava il fucile anche fuori l'età minima, ma comunque si aveva consapevolezza di quale fosse l'esercizio venatorio. Oggi si ricomincia dalla prima generazione, comincia a essere un po' più difficile. Cosa ne dice Franco? Buongiorno. Sì. Sì. No, io sono un ex cacciatore, ho cominciato da 18 anni, nato da famiglia di cacciatori e ci ho impiegato 18 anni per capire che la caccia è una cosa che non va bene. È un pentito, quindi, è un cacciatore pentito. Sì, diciamo un cacciatore pentito, ma quello che Cos'è che non va bene secondo lei, Franco? Non va bene, non c'è etica venatoria, non c'è rispetto per gli animali, non c'è rispetto per i propri cani, non c'è rispetto per le persone. Quindi sono cadute le regole base che facciamo della caccia un nobile esercizio. Sì, uno spara e anche se non è sicuro di colpire l'animale, se non è sicuro di ammazzarlo, spara lo stesso, ma non si sa mai, magari lo prendo. Ma quello che volevo dire è un'altra cosa, volevo spezzare non una lancia a favore di chi va a caccia, ma contro quelli che mangiano la carne e poi criticano i cacciatori. Perché io ho pensato questa cosa. Il cacciatore usa il fucile come tramite per ammazzare un animale. Chi non va a caccia usa il macellaio come tramite per mangiare la carne. Sì, lei apre un'altra vicenda che non voglio nemmeno toccare. Il povero animale, la selvaggina è selvaggina, su questo sono d'accordo anch'io. Il fagiano nasce per essere fucilato, come la lepre, come il cinghiale. Dirò un'eresia, ma ancora mi sento di poterlo dire tranquillamente questo. Non è questo il campo, non volevo aprire adesso una difesa generale, non ho, anche se molte volte ho scherzato sul fatto che sia vegano, ma non è solamente vero. Mangio quello che mi va e quello che mi capita e quello di cui ha bisogno il mio organismo. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Eccomi. Allora, niente, secondo me il problema sostanziale alla fine è che c'è una grossa preparazione per quello riguarda la cacciagione, cioè io devo sapere quali sono le specie cacciabili, però hanno un basso addestramento all'utilizzo dell'arma, quindi si trovano in aperture di caccia limitata, tempistiche brevi a dover imbracciare un fucile senza avere un allenamento preventivo, comunque una preparazione effettiva a quello che è tutto l'utilizzo della treppa. Leggo che lei è un istruttore di tiro a segno, quindi lei probabilmente, certo, vedrà nei poligoni gli aspiranti cacciatori che vengono a fare il rituale test, come funziona, non so adesso, non ricordo esattamente cosa si facesse. Comunque bisogna andare a far vedere che si ha dimestichezza con le armi. Esatto, c'è una, un, piccolo test preparatorio, cioè, per quanto possa. In cosa consiste il test? In cosa consiste? Lezioni teoriche e pratiche, però alla fine. Ma con che cosa sparano quando vengono al poligono? Dipende dai poligoni quali attrezzature hanno, comunque anche col fucile da caccia. Col fucile da caccia, con munizionamento da caccia o sparano con un fucile, diciamo, da tiro del poligono? Attrezzature del poligono, ma comunque idonee alla preparazione a cui debbono poi andare a esercitare la funzione venatoria. Il problema è che dopo non c'è più questa costanza di allenamento, non per tutti naturalmente, chi è veramente appassionato è in pratico e riesce a gestire l'arma in tutta tranquillità. Molta gente parte la caccia, andiamo via, frenesia, tutto quello che vuole, disattenzione, e dopo capitano le disgrazie. Quindi lei denuncia il fatto, dal suo punto di vista di istruttore di tiro, c'è una perdita della dimestichezza e quindi dell'esercizio nell'uso dell'arma. Il maneggio dell'arma, esatto, è una cosa molto delicata, si perde nel tempo anche l'esercizio, bisogna esercitarsi. E un'arma da caccia è un'arma che ha delle caratteristiche che bisogna ben conoscere, soprattutto se si va a caccia di cinghiali, di animali di media taglia, non tanto solo di uccellini. A questo punto introduco il rappresentante dei cacciatori, il presidente della Federazione Italia della Caccia, Gianluca Dall'Olio. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. L'ho fatto ascoltare una serie di reazioni. Ho ascoltato, sì. Perché a questo punto esprima il punto di vista e dia i correttivi che reputa necessari, ma ci completi questo quadro. Lei naturalmente, il suo punto di vista è intuibile. Lei pensa che tutte le prime eccezioni sono state sollevate abbiano dei fondamenti di realtà, cioè che ci sia una superficialità, poca capacità di usare le armi, di conoscenza del territorio? Vediamo di riportare il problema in termini più obiettivi. Beh, innanzitutto non credo che ci sia superficialità in senso generalizzato, ci può essere superficialità o inaccortezza o incautela da parte di alcuni, come in ogni altra attività dell'uomo, anche nel lavoro. Gli incidenti sul lavoro sono numerosi, insomma, e quindi a volte sono dovuti a incautela, a insicurezza. Noi riteniamo, innanzitutto va smentito che siano le associazioni venatorie a concedere il diritto ad esercitare l'attività venatoria, perché sono le province e i cacciatori tutti sono sottoposti ad un esame severo, là dove viene ovviamente mantenuto come tale. E in secondo luogo è la questura che concede il porto d'armi attraverso una serie di requisiti che il cacciatore deve presentare, innanzitutto la fedina penale pulita, quindi poi anche le visite mediche, quindi voglio dire dal punto di vista generale ci sono tutte le cautele necessarie, insomma là quando queste vengono rispettate. Il problema della sicurezza a caccia è un problema che ci tocca e che ci preoccupa. Tanto che quest'anno abbiamo distribuito ad ogni cacciatore italiano, tutte le associazioni venatorie, noi a circa 400.000, un opuscolo di 30 pagine che percorre tutte le norme, non di legge, ma le norme comportamentali, quindi etiche legate alla sicurezza dell'uso dell'arma nei confronti della sicurezza per se stessi e la sicurezza nei confronti degli altri, sia cittadini che percorrono le campagne per altri svaghi, per altre attività, per una fruizione diversa da quella della caccia, sia per quelli che accompagnano o che esercitano la caccia. Abbiamo fatto anche quest'anno in ben 12-13 regioni una giornata di addestramento in preapertura, prima dell'apertura della caccia, per rispondere proprio al criterio di vediamo un attimino, praticamente fucile alla mano, di esercitare, finalizzato ad ottenere sicurezza e a un maneggio serio, sicuro e corretto dell'arma. Quindi questo a seguire proprio una preoccupazione e a dimostrare una preoccupazione che si sente al di là delle esagerazioni statistiche sulla mortalità a caccia. Nemmeno le cifre secondo lei corrispondono? Le cifre che ho sentito prima non ci risultano nel modo più assoluto, insomma, ecco. Beh, sono uscite anche 2011 ha avuto, almeno questo non risulta, soltanto purtroppo 4 morti. E 4 questo morti è, abbiamo detto noi. Questo nel 2011. No, 4 morti dall'inizio dell'apertura della caccia quest'anno è già stato terribile, insomma, ecco. Ora il padre nei confronti del figlio è sempre spiacevole parlare di queste cose, però quando uno inciampa e vista anche l'ora, mi pare di aver letto, Credo che, lo dico con grande rispetto nei confronti di questo padre e delle responsabilità della conseguenza, però bisogna oggettivamente dirlo, credo che in quel passaggio sarebbe stato opportuno avesse il fucile scarico. Come prescrive la regola? Come prescrive la regola e vista l'ora anche la norma di legge, punto. Quindi è chiaro che da questo punto di vista, le ripeto, riporto le cose che ho letto, io non sono stato testimone dei fatti. Io ho letto, anch'io riporto le cifre prese dai giornali e dalle agenzie. Quindi voglio dire, posso dire anche cose che non corrispondono al vero, però se è vero ciò che ho letto, evidentemente c'è stato un atteggiamento di scorrettezza e di assoluta e totale e pericolosa incautela. Pregherei il rappresentante dell'associazione delle vittime della caccia di rifarmi un punto di quelle sono state le loro ufficiali dichiarazioni sulle vittime, non che sia poi a questo punto di vista fondamentale, però almeno avere un'esattezza di quello che si dice. Rimane un problema insoluto e insolubile: da una parte naturalmente chi ha il punto di vista di quelli che vengono impallinati non può che accelerare sul fatto che in effetti la caccia è un esercizio pericoloso, chi segue le regole, chi è cacciatore al 100%, chi non ha problemi perché sa esattamente muoversi in termini di sicurezza, dice quando c'è un incidente è perché qualcuno è andato contro quelle che sono le regole basilari che fanno sì che la caccia sia un esercizio che si possa fare in estrema sicurezza. Arriva un gruppo di cacciatori della domenica, guardate come si passano le armi dalla macchina. Se Santuberto si distrae per un attimo e dimentica di proteggerli, saranno gli infermieri stasera a tornare a casa con il carniere pieno. Poi se ne vanno in giro con i fucili puntati l'uno contro l'altro. Se c'è chi grida agli automobilisti imprudenti, ma chi te l'ha data la patente? A questi bisognerebbe gridare, ma a te chi te l'ha dato il porto d'armi? Ma il porto d'armi viene rilasciato a chiunque? Normalmente sì. Domanda in carta da bollo, pagamento della tassa, certificato penale. E se è nervosissimo, chi lo sa? Ma è appunto per questo che per l'aspirante cacciatore occorrerebbe un certo esame, non si possono sentire le interviste fatte negli anni 60. Per fortuna qualcosa è cambiato nella infingardaggine dell'esercizio giornalistico. L'intervistato che legge le risposte come se fosse un attore. Comunque il senso era quello. Già allora c'era qualcuno che maliziosamente voleva insinuare che in realtà nella caccia c'era qualcosa che apparteneva al mondo antico, non più adeguato ai tempi, alla fantastica ascesa del paese verso il boom economico. E oggi si riflette sotto anche altri punti di vista. Io so che questa mattina mi sono guadagnato un'invasione sotto casa mia e una verniciatura di rosso o una ricopertura di penne, di piume e pece per quello che ho detto, ma voglio essere realistico. Se uno ha la fortuna o sfortuna, a seconda del suo karma, per chi ci crede, di nascere sotto la categoria denominata selvaggina, è chiaro che il suo destino è quello di essere impallinato. È la sua gloriosa fine, come il maiale è destinato a essere depezzato e trasformato in prosciutti. Io l'ho sempre pensata così, l'ho sempre detto, non è che ho detto un'eresia. Adesso mi stanno chiedendo trasmissioni riparatorie in difesa della povera selvaggina. Faremo una trasmissione in difesa del fagiano, se volete, o della lepre marzolina, o non lo so, di quello che volete, ma mi sembra un po' ridicolo. Silvia, buongiorno. Buongiorno. Mi dica. No, lei ha chiamato, lei mi dica, signora. Sì, poi sì, è una signora. Okay. Le do la parola. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono a favore della caccia. Perché innanzitutto gli animali che vengono cacciati vengono poi comunque mangiati e almeno vivono più felici di quelli che ci sono negli allevamenti. Inoltre, io sono agricoltrice, se nessuno andasse a caccia di lepre e fagiani, noi non potremmo più coltivare i terreni perché si mangerebbero tutto loro. Da in certo senso ragione a quello che dico io. Oggi è più facile vedere lepri attraversare la strada di notte, ma anche nei dintorni di Roma, che incrociare gatti in amore. Sì. Come anche volpi, come anche cinghiali, capita molto spesso. Lei dice, ormai la selvaggina si è talmente riprodotta. Sì, lei non? Sì, dicevo, io non sono in zona di cinghiali, però è così, cioè se la selvaggina, di selvaggina ce n'è tanta. Lei quindi dice la selvaggina e ora qualcuno si occupi di dargli la gloriosa fine che, per cui è stata creata e messa al mondo. Diciamo, o ci pagano per non coltivare la terra e dopo lasciamo che tutto si riempia di lepri fagiani, ma se questo deve essere un lavoro per alcune persone, è giusto che quello che ci danneggia venga eliminato. Quindi lei da agricoltore dice, in effetti, se si ferma un momento l'equilibrio tra cacciatore e selvaggina, la selvaggina comincia a diventare un parassita della campagna, la campagna ne soffre. Sentiamo cosa ne dice Rino. Rino, buongiorno. Buongiorno, io volevo intervenire per dire che non è vero che sono i giovani che non stanno attenti, che quando vanno a caccia sono troppo giovani, non capiscono quello che fanno, è proprio il contrario, perché una volta la licenza di caccia la regalavano a tutti, adesso da parecchi anni a questa parte bisogna studiare parecchio, fare 5 esami in uno per averla. Ma che la regalano a tutti mica è tanto vero, io ho ricordi molto remoti, c'è sempre stata una parte teorica e una parte pratica, ma dalla notte dei tempi. Sì, ma è molto diverso da quella che c'è oggi. Io le posso garantire che mio figlio, quando va a caccia, ha fatto la licenza 2 anni fa, 23 anni, io ne ho 51, sta molto, ma molto più attento di me. E se succede qualche cosa, qualcuno che spara contro qualcun altro, sia tranquillo che sono sempre gli anziani, non sono i giovani. Quindi lei dice una questione anagrafica. Gli umarelli che vanno a caccia sono molto più pericolosi dei ragazzi che sono più attrezzati. Non solo, le dico un'altra cosa, perché bisognerebbe fare una trasmissione lunga sulla caccia. Provi a vedere, io sono della provincia di Varese, in tutta Italia quelli che vanno a fare gli esami di caccia, non so, varie province d'Italia, a vedere in quanti fanno l'esame e in quanti sono promossi. Io le dico Varese 5 su 20. Provi a vedere nelle altre province d'Italia. Lei dice c'è una discriminazione fra nord e sud. Al sud sono più di manica larga. Lei provi a fare questa ricerca e poi mi richiamano e ne parliamo. Ma dica il suo punto di vista adesso, al di là. Poi, Ma io ho tanti amici, lo vedo, no? Sento, vedo che vanno a fare l'esame di caccia, 20 a fare l'esame e 20 promossi. Qui lei va in provincia di Varese, in qualunque, ogni mese ci sono esami. Se ne sono 20 sono promossi in 5. Se non sono ultra preparati la licenza non gliela rilasciano. Bisogna vedere tante cose nella caccia, non è così semplice. Però è giusto che sia così, concorda? Certo, è giustissimo, deve essere dappertutto così. Se lei chiede a un anziano che va a caccia quanti metri deve stare per sparare ad una casa, non lo sa, lo chiede a un giovane e gli risponde subito. È come il codice della strada, di circolazione. Bravo, bravissimo, perfetto. Maurizio Giulianelli, dell'associazione, vicepresidente associazione vittime della caccia. Visto che ci stiamo avvicinando un po' proprio all'aspetto normativo, se vuole dire qualcos'altro sulle cifre dei morti, io ho semplicemente riportato quello che è uscito sui giornali nelle agenzie di stampa, però non è questo il punto in questo momento. Quale sarebbe il territorio di intesa comune che potreste trovare con i cacciatori? Come dice il signore, esami molto selettivi, la capacità e la sicurezza che le persone che hanno una licenza conoscano perlomeno le regole basilari, basterebbe questo? Guardi, io voglio ripartire da una condizione che spesso viene bypassata. Allora, la caccia in Italia, per la legge 457, è una concessione che lo Stato fa ai cacciatori, perché la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato. Ora, all'interno di questa concessione bisogna ragionare nei termini seguenti. È preminente il diritto alla sicurezza dei cittadini o è preminente il diritto a cacciare da parte dei cacciatori attraverso la legge quadro, che è una legge che gli consente di cacciare? Ma come bisognerebbe inasprire le norme, allora, secondo il voi? Il problema è che, ripeto, in questo contesto ormai fortemente antropizzato, se noi facessimo un'analisi più accurata di tutto il territorio, a partire dalla gittata poi dei fucili per ungulati e quindi ad anima ricata con una gittata di oltre 1000 metri, non ci sarebbe territorio cacciabile in Italia e la caccia non avrebbe possibilità di essere praticata. Lei dice se le regole che già esistono fossero applicate non si potrebbe cacciare. Possibilità alcuna. Gianluca Dall'Olio, presidente della Federazione Italiana della Caccia, lei cosa dice rispetto a questa... Se uno ha delle convinzioni abolizioniste invece di passare per le distanze, dice la caccia va abolita, punto. Mi sembra onesto. Corretto, no? Dice, invece di dire di andare a cercare il freddo per il letto, come si dice dalle mie parti, attraverso le distanze, che è un modello secondo me abbastanza difficile da applicare. Meglio che a letto non ci va per niente. Uno dice, la caccia va abolita, stop. Ecco, allora è difficile anche il confronto, no? Perché non c'è dialettica che ci possa vedere assieme, e questo è il principio. Ma è vera questa cosa delle distanze, che soprattutto per la cartuccia ad anima rigata, per il cinghiale, se si mantenesse a distanza non si potrebbe andare a cacciare da nessuna parte. Innanzitutto il cinghiale può essere cacciato sia con anima rigata che con anima lissia. L'anima lissia ha una portata molto minore, che si esaurisce nell'arco dei 100 metri. La canna rigata è diversa, quindi ovviamente anche lì bisogna poi rispettare, come posso dire, le norme di sicurezza, sia quando si organizza la caccia cinghiale che una caccia collettiva, sia quando si va a titolo individuale e si può andare a titolo individuale, perché anche queste poi sono cose che sono previste di regione in regione in maniera diversa. Non in tutte le regioni si può cacciare il cinghiale individualmente. Quindi lei intravede, mi sembra di aver capito, un'anima ideologica dietro ogni eccezione. Io credo molto, ne sono assolutamente convinto. Credo che il problema vada riportato, ovviamente per chi non è abolizionista, che non cerca l'abolizione della caccia, sul rispetto delle regole, non soltanto quelle scritte come norme di legge, ma anche quelle che appartengono al tuo bagaglio culturale di sensibilità etica, etica del comportamento, della correttezza, che riguarda non soltanto le distanze, ma che riguarda e deve riguardare anche la sostenibilità dell'esercizio delle natorie dal punto di vista della quantità del prelievo. Quindi il prelievo deve essere responsabile, sostenibile. E quindi ci sono comportamenti a volte, purtroppo, nel nostro mondo, anche se è una minoranza che esprime in questo senso, che non rispetta le regole del prelievo, quindi che fa un prelievo, come posso dire, illegittimo, non so se mi segue. Sì, sì, no, quindi, ma e a volte purtroppo anche per qualità. Per specie protetta che non si può cacciare. Sul rispetto delle regole. Però quello che diceva la signora ascoltatrice che gestisce un'azienda agricola. È una verità assoluta. Oggi l'Italia in Europa è uno dei paesi a più alto livello di capitale faunistico. L'incremento degli ungulati, ma anche l'incremento della lepre, l'ha osservato lei, la ringrazio di averlo detto, se di notte lei vede le lepri piuttosto che i gatti in amore, è una verità. In alcune regioni estremamente visibili. Non mi sembra aver detto un'eresia, l'ho notato. Lei ha detto una verità. Io vedo più lepri e volpi che gatti in amore. Esattamente, se lei percorre la Milano-Bologna e guarda, meglio che non ci guardi per ragioni di sicurezza nella guida della macchina, però a destra e a sinistra vedrà, soprattutto nella parte emiliana-romagnola, i fagiani a vista, quindi esistono, si vedono dall'autostrada, se ne vedono anche purtroppo di morti sull'autostrada perché vengono investiti a 130 all'ora, si spera, e non a 150, dalle vetture che passano, insomma, ed è una cosa che si vede, ecco, poi che per chi ha curiosità e voglia di vedere, ecco. Quindi esiste oggi un capitale significativo, un incremento significativo, poi ci sono delle specie che hanno ovviamente problemi in termini di presenza, di densità, esiste anche un grosso problema di habitat, un decremento e una qualificazione degli habitat fa sì che oggi in Italia alcune specie, soprattutto migratorie, ovviamente non abbia più territori di sosta. Ecco. Mi interessa anche questo lato del problema, il fatto che se ci fosse veramente, e in parte potrebbe anche esserci, una portata profonda di origine filosofica, di convinzione etica e via dicendo, che in realtà vorrebbe l'abolizione totale della caccia, bisogna capire quale sarebbe anche la conseguenza. 800240024, parliamo di caccia, caccia sì, caccia no, alla fine è diventato questa la risoluzione manichea del problema, perché al di là delle cifre, dei dati, della richiesta di maggior sicurezza, sembra che il vero spartiacque sia proprio l'idea di una viscerale profonda avversione per la caccia, ritenuta come un esercizio antico, atavico, barbaro, e altre persone che in realtà si fanno portatori di una tradizione antica e anche di un'azione importante nel territorio. Ci ha chiamato un'ascoltatrice dicendo che lei, come persona che gestisce un'attività agricola, nota che in realtà la cacciagione, se non ci sono più persone capaci di prenderla, di ucciderla e di regolare attraverso questo antichissimo sistema l'espandersi di alcune specie, diventa dannosa per la campagna. Cosa ne pensa Stefano? Sì, buongiorno, sono Stefano, chiamo da Pavia. No, quello, il mio pensiero è questo, che ad esempio a fine mese, dal 26 al 30, con un'associazione di escursionisti, facciamo un percorso che parte dall'Appennino in provincia di Alessandria, sino ad arrivare a Portofino a Genova, e ci sono dei timori perché attraversiamo zone collinari soggette a battute di caccia, cinghiale e altre specie, e quindi c'è qualche ovviamente timore nell'attraversare queste zone, per cui penso che ci premuniremo, che so io, di giubbottini, quelli catarifrangenti che si usano per l'auto, per poter attraversare con una qualche sicurezza queste cioè avete un'attività di trekking, fate le lunghe passeggiate in mezzo ai boschi. In questa stagione avete paura di incappare nella fucileria spinta dei cacciatori? Sì, che è piuttosto nutrita. Poi è comprensibile che appunto alcune specie che lì sono diventate endemiche e hanno causato anche danni all'agricoltura, sono soggette a caccia come cinghiali. Però comunque... A lei mai è capitato di incrociare qualche cinghiale? Sì, assolutamente. Ma addirittura lì nella zona collinare... È un'esperienza abbastanza spaventosa, devo dire, a me è successo più di una volta. Non è che faccia proprio piacere vedere un cinghiale a piede libero che ti guarda così e non sai bene quello che c'è in mente. Di solito in quelli in cui mi imbattevo io, insomma, poi se ne andavano per i fatti loro, ecco. Magari è pericoloso quando arrivano proprio in pianura e attraversano le strade. Questo lo ammetto, che va fatta un'attività di anche selezione. Comunque abbiamo capito, è chiaro il suo punto, Stefano. Chi va a passeggiare per boschi in questo periodo ci pensa due volte prima di attraversare le aree a rischio, le aree di caccia. Gianfranco. Sì, salve, sono Gianfranco da Crescentino. Buongiorno. Senta, io le parlo prima di tutto da ex cacciatore. Io sono favorevole alla caccia. Perché giustamente, come ha detto Dotti, cerca di stabilire un po' la quantità di animali liberi, soprattutto anche per la signora che ha risposto prima, sono perfettamente d'accordo con lei contro le colture. Però le parlo anche da agonista di tirovolo, non so se lei conosce la pratica del tirovolo. Noi abbiamo tutti i weekend in mano un'arma, è quello dell'oro della Jessica Rossi. Presente, sì? Sì. Bene. Quindi noi abbiamo una certa dimestichezza con le armi, perché con noi abbiamo sempre a fianco delle persone, prevalentemente tutti i weekend, quindi abbiamo gestione l'arma. Sì, voi operate in un'area molto protetta, sì, delimitata. Sì, certo, noi non abbiamo persone, non abbiamo rischio di incidenti. Non è che sparate a caso nella foresta. No, lo so. Io le volevo spiegare perché sono arrivato a questo punto, le spiego. Nei miei pochi anni di caccia, ho notato la negligenza, il signor prima ha detto, degli anziani, ma direi un po' di tante persone, nell'essere un po' troppo approssimativi con l'arma, girare con l'arma chiusa, girare con l'arma carica. Io non voglio essere il santo della situazione, ma le spiego che io ho sempre girato con l'arma aperta, vicino alle case, nell'attraversare le strade, nel fare le cose. Poi quando il cane segnava la selvaggina, chiudevo l'arma e sparavo. Quindi lei, ripete, la sentiamo malissimo, purtroppo la linea è diventata evanescente. Poi ripete quello che abbiamo già detto, da esperto di armi, da tiratore al volo. In realtà l'arma non è un giocattolo, noi ce lo insegnavano sin da bambini, le armi non si puntano mai, le armi non sono un gioco. Oggi probabilmente per qualcuno queste regole ferre che rimanevano nel nostro DNA impresse sono un po' meno ferre. Volevo sentire un attimo Gianluca Dall'Olio, che è il presidente della Federazione Italiana Caccia, mi scrive sul profilo Facebook Melog Radio 24, Mario. Dice: l'articolo 842 del Codice Civile consente ai cacciatori, e solo a loro, di entrare nei fondi privati senza il consenso del proprietario. Questa limitazione è l'unica al mondo, l'unico paese al mondo in cui c'è questa limitazione, è vero? No, l'842 non è che conceda soltanto, se no anche il signore che deve fare il trekking, provi a chiedere al signore che deve fare il trekking da Alessandria fino a Genova o oltre, quante se, deve chiedere, se deve chiedere l'autorizzazione al passaggio nei territori dei proprietari o dei conduttori dei fondi che lui attraversa. Quindi dice, questa regola deve valere per tutti, la devo interrompere perché la sigla ci porta via e ci sentiamo lunedì.